Adesso faremo un pezzo di Mina. Dunque, questi qua sono coraggiosi molto. Di Santa Chaos, anzi la Santa Chaos. Mi spiace solo che non essendo purtroppo una professionista, non sapendo fare nulla, come quasi tutti quelli che vanno in televisione a fare esposizione di sé non sapendo far nulla, anch'io stasera dimostrerò come è facile non sapere fare nulla anche in questo caso. Metti le chitarre in spia dal batterista, per favore. Metti le chitarre in spia. Quella il Capaghebè. La chitarra in spia. È un famoso topos. Allora, adesso facciamo una canzone per coloro che hanno voglia di fare con noi questo passo verso la giornata festiva. Poi domani, questione di pochissimi minuti, siamo pronte a trasformarci tutte in cornetti e cappuccini della serie Chi vuole mangiarci può farlo e chi vuole invece berci altrettanto. Facciamo una canzone che i ragazzi della Santa Causa hanno messo nel loro repertorio e che il grande regista Michelangelo Antonioni scrisse per il suo film L'Eclisse, un film ritenuto un capolavoro nella storia del cinema, i famosi Dobali, che a vederlo tutto ci vuole veramente il coraggio di un leone. Sai che ne sai molto. No, non so, mio, è che una volta che l'ho vista mi sono addormentata. Ero al cinema all'Edison, che faceva la rassegna Antonioni. Fin d'Antonioni, il famoso Dobali. Giancarlo Antonioni, quello che giocava numero 10 nell'Italia. La Fiorentina, per Dio, ce lo ricordiamo tutti. Campione del mondo dell'82. Mica me, chi parrucherca che era lì a Lisbona. Più che gli europei sembrava il coso, il campionato europeo degli acconciatori. Cerchietti, le treccine, rasature, molto bene. Il calzette bus. Calzette. La scarpa trascalda la fetta, lo spol. Gheran Calira di Brasi. Poteva via pensare a Glè, è vero, al famoso Pet Gosé. C'ho i piedi che mi sono cardi, ma va a cagare in Tiortighi, va. E in Brusio tal cool, vabbè. Totti. Un giorno l'ho incrociata, buona domenica. Ma chi è più figo fra Totti e Figo? Cioè, Figo è molto più figo. Uno. Totti e buona domenica. Io passo, sai, facevo un po' la sostenuta, perché cosa vuoi? Figo mica sto lì a guardare. Totti è più Totti. No, Totti è più Totti, che ha un gran bel culo, Totti, uno. E allora mi giro, no, faccio così un po', sai, la ragazza di quelle che non è che vogliono dargliela subito. Aspettiamo un attimo. E allora lui mi guarda, no, l'anghiera amica la Hillary. Chi, la Clinton? Colla la gavetta da pensare. E mi fa, oh, che fai, non mi saluti? E io ho detto, scusa, sai, non t'avevo visto. Mi fa il sangue giunta, no? Francesco Totti, sai, non t'avevo visto. Che voglio dire, questa sera con Fett. Da Tio da me, vabbè. Niente, allora facciamo questa canzone che si chiama Eclisse Twist. Prima che il vento mi porti via la parrucca mi scompigli i capelli. Il problema è l'attacco. Le nuvole, la luna ispirano gli amanti, si va per tanti, compreso me. Oh, realtà. Un brivido mi dà, ma tu Di più. Grazie, bel applauso. Grazie, molto gentili. Alla pratica adesso per voi, ecco, la plati per la platea. Bella ci questa. Ballerà una danza orientale. Beh, Max è un maestro. Da Platone a Platone. Di vita.